Chalemay, Chalemay, grito de libertad, Tungumán y Longuen. Si ni cuse, si mi fusa, maleimu, me fati, cuse, cuse. Me lei monte fa ti futa me lei monte fa we we entro me lei cha cha te fa tammi che tran mio pe tatami ti che tran entro me lei. Y que entrando muy me leo, mu, mu, mu, mu. Si ni cuse, ni fusa, me leo, mu, te fasi, cuse. Me leo, un te fa, si ni futa, me leo. When she went through, me lay mu. Cha cha cha de fa, que tran. Il pen tam ni con que tran. Chini que tran du mu, me le chin chin, dom me le mu. Me lei monte fa, tini futa. Me lei te fa, ue ce uentru, cia le mai. Ia tu, tati ciao, me lei mai, tati ciao.